Cantine di Franciacorta. Un saluto da Rodengo Saiano, dal Borgo La Gallinaccia, cantina di Paolo Gazziero, nata oltre 10 anni fa dalla sua passione per la campagna. Imprenditore del settore tessile, Paolo Gazziero oggi produce circa 25.000 bottiglie tra rossi e bollicine. Ci racconta i suoi obiettivi. Nel rosso ho voluto fare la differenza. Nelle bollicine siamo andati sulla semplicità, ma sull'eleganza. Questo deve essere una cosa semplice, ma elegante in bocca. Non voglio andare a scoprire i nuovi sapori, nuove sensazioni. Voglio comunque dare una percezione di eleganza in bocca. Insomma, alla fine voglio che chi beve ne voglia bere un altro bicchiere. Alla prossima tappa in Franciacorta. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.